Allora, signore e signore, stasera abbiamo un'esclusiva. Siamo in possesso di... No, no, grazie. No, grazie. Non ne vogliamo materassi e cose varie. Stavo dicendo, Materassi a malletta, si chiamata. Siamo in possesso di un'esclusiva, stavo dicendo... Donne, donne, È arrivato? siamo in possesso di un'esclusiva. Credi di pezzi di cucina un gesto? Infatti, credo di pizzicucire un gesto, sì. Io devo viaggio, va. Cucina a gas! Impariamo cucina a gas! Ma lì ancora un berra ma mangia! Vivono 50 euro! Accattate Ma chi ti ha fatto su biscotti che tu sta mangia a me? Spiega chi ti ha fatto su biscotti? Chiaro su buca cazzo un campione! Scusate, ragazzi, scusate. Chi ti ha fatto un campione? L'aggresimata, ma battiato. Ecco, bravo. Stavo dicendo, abbiamo un'esclusiva rubata da Margheritoni dal cassetto di Alfonso Signorini, ovvero l'audio del parto di una nota. No, no, il maneggio che non riesce, solo pulvere ne esce il cassetto. Addirittura. Si mangiano rapaci i mutanti magari con la sgommatina. Mi stavo facendo un biscotto qui. Dice la parola. Alleluia, alleluia, alleluia. Stavo dicendo, abbiamo l'audio del parto di Carla Bruni. Ovviamente è un documento forte, vi preghiamo di far allontanare i bambini dai microfoni perché è una cosa molto, sì, è insentibile. Prego, lasciano un po' forte. prego. Il parto di Carla Bruni è offerto da ai perditi di ogni tipo, chiamali Idraulico Siffredi. L'Idraulico Siffredi opera in lontananza dai mariti cornuti. Idraulico Siffredi, 150 centimetri di professionalità. Forza! Forza, signora! Spinga! Spinga! Guatia, chi ti vuole spingere? Uccelletti la pistola e sparate! A due sacco! Guatia, chi ti muo! Ma in Germania della Merkel, nessuno sulla crisi! E chi sono nella crisi? Guatia, chi ti muo! Su, signora, che la testi fuori! Sì, la testa è cazzaia! Respiri, signora, respiri! Maledetta mia quando c'è la piattiga! Ci siamo, signora, dai, tenga duro, tenga duro! Duro cazzo! Mi state sguardando! Ma chi per voi? Ecco, ci siamo! Spinga, spinga! È una pelle bambina! E la Madonna se buon! Ma è una bambina di colore! Sì! Mo' mi ricordo quando siamo andati a trovare l'Obama che è morto pure la sera e gli hanno convegno e io sono andato a trovare un cugino d'Obama, Gianfranco, detto cioccolata. Mi ha fatto venire una salsiccia che manco le cani. L'hai provata e forse ha fatto indigestione su acqua già fredda. Il parto di Carla Bruni è stato offerto da Idraulico Siffredi e ti fa gioire anche all'impiede.